Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, questa sera parliamo di un nuovo approccio alla telemedicina che vede protagonista una startup italiana fondata da un noto cardiologo, due esperti di telemedicina. La startup si chiama QuasarMed ed è una cosiddetta startup innovativa che ha messo a punto un servizio medico clinico, potremmo dire così, vero e proprio, che viene fornito a persone che hanno dei problemi di pressione ma che non si trovano in fase acuta e tuttavia hanno appunto bisogno di un monitoraggio. Tipicamente cosa si fa in questi casi? Ci si reca dal medico periodicamente con un bel elenco di misure di pressione, di solito poco uniformi, e il cardiologo, se va bene, di solito il medico deve cercare in qualche modo di ricostruire la storia clinica della persona che ha davanti, ed è una roba, come adesso capiremo, molto difficile. E qui infatti arriviamo ad AmicoMed, questa app, questo servizio di QuasarMed che ha ricevuto l'egida della SIA, la Società Italiana di Ipertensione Arteriosa, di cui in linea con noi c'è il presidente Claudio Borghi, che è anche ordinario dell'Università di Bologna e direttore dell'unità operativa di medicina interna ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Buonasera Borghi. Buonasera a tutti voi. Allora, le chiedo subito, insomma, di spiegarci in che cosa consiste questo servizio, ma soprattutto qual è il problema di fondo che bisogna risolvere. Il problema di fondo è che in generale la pressione arteriosa è un processo dinamico, è un parametro dinamico che si modifica nel tempo. Ovviamente il passaggio tra valori normali di pressione arteriosa e valori di pressione elevata, quelli che noi definiamo ipertensione, avvengono in maniera progressiva e quindi è assolutamente necessario rendersi conto di quando questo avviene. Questo nuovo servizio fondamentalmente facilita questa cosa. Ecco, come funziona questo servizio? C'è un'app oppure comunque c'è un sito e noi possiamo mettere dati dentro che abbiamo misurato nei modi più disparati, cioè non è che ci misura la pressione. Sì, uno dei grandi vantaggi di questo sistema è il fatto di non richiedere necessariamente che il sistema stesso misuri la pressione. La pressione può essere misurata in qualsiasi modo, in qualsiasi ambiente, da qualsiasi professionista, e successivamente i valori numerici di pressione vengono immessi in un'app molto semplice sui nostri telefoni cellulari. Si può addirittura usare il telefono, no? Si può usare qualsiasi mezzo che sia in grado di mettere dati di quelli con i quali trascorriamo gran parte del nostro tempo. Questi dati vengono utilizzati da un algoritmo, che è la parte più innovativa, se vogliamo, di questo servizio. Che cosa fa? Beh, questo algoritmo non fa altro che analizzare il trend di variazione dei valori di pressione arteriosa e si dice se i nostri valori di pressione sono stabili o se si stanno spostando verso l'alto, quindi nel primo caso ci permette di essere rassicurati, nel secondo caso ci dice con largo anticipo che c'è qualcosa che non va e che probabilmente dobbiamo quantomeno cambiare il nostro stile di vita, ad esempio. Chi però si accorge di questa cosa? Perché a un certo punto c'è un anello umano in questa situazione. Non c'è dubbio che le misurazioni vengono trasferite a una centrale, ed è una centrale medica vera e propria, nella quale in maniera remota, come oggi avviene per molti parametri che sono quelli che alimentano il sistema della telemedicina, dall'altra parte c'è un professionista o più professionisti che prendono in esame queste modificazioni della pressione e ritornano a colui che le ha immesse una informazione che gli dice: stai sereno, per essere in linea con quanto dicono i nostri politici, o alternativamente comincia a preoccuparti dei tuoi valori di pressione. Ok, perché diciamo che c'è un'analisi automatica svolta dal sistema, ma se questo sistema ravvisa che c'è una situazione problematica, allora avverte un cardiologo che prende in carico questa roba e dice: no, attenzione, qui bisogna avvertire il medico, avvertire l'ospedale o avvertire magari la persona di andare al pronto soccorso, per dire. La maniera più assoluta. I grandi vantaggi degli algoritmi che gestiscono in maniera remota queste cose sono proprio questi, di valutare la possibilità che il paziente resti in un range di normalità, e appena il paziente esce da questo range di normalità, naturalmente è necessario un intervento umano, il quale deve definire quanto questa divaricazione rispetto a un range di normalità può avere un significato e quindi se è necessario prendere provvedimenti. Quindi è qualche cosa che a distanza tutela il paziente, come se il paziente si trovasse in un ambulatorio medico, ma permettendogli però naturalmente di vivere la sua vita normale e soprattutto di non perdere tempo semplicemente per misurarsi i valori di pressione. Senta, quanto spazio c'è per applicazioni, per forme di telemedicina di questo genere, al di là del caso specifico? Io credo moltissimo, perché la medicina sta andando ovviamente in questa direzione, un po' perché le risorse ad esempio delle grandi strutture cliniche piano piano si stanno riducendo, un po' perché c'è una certa tendenza a demandare anche la responsabilità del paziente e un po' perché molti dei pazienti che sono affetti da problemi come questo problema di ipertensione vivono una vita attiva, del tutto autosufficiente, e quindi non vogliono ovviamente essere gravati da un legame presso una struttura sanitaria. Prova ne sia che leggevo qualche giorno fa e si diceva che negli Stati Uniti circa il 40% dei pazienti ha chiesto formalmente al proprio medico di medicina generale di intrattenere con lui soltanto un rapporto attraverso Facebook, il che vuol dire che c'è uno spostamento terrificante della medicina verso questa attività di controllo remoto. Grazie, grazie Claudio Borghi. Grazie a voi, buona serata. A domani.